dopo una carica attesa, e ci riascoltiamo dopo, dai. Riguardate Claudio, lo stesso, hai fai il tuo errore e parli, io adesso nel radio non ci sono problemi. No, io stavo guardando una cosa qua, allora, mi pare che questa sia la calibrazione, un po' di tutto sta radio, hai città. Va bene così, io non vengo, ecco qua, perfetto, così invece la calibrazione, e così è lo Schmidt, signal, va bene, quindi mi ascolti bene Falke? Lo vedrei, pare che va vedere il visione. Originale, questo è il microfono suo originale, va bene. È perfettissimo Claudio, è una bomba. Adesso dici, dici portate della mente in quarta, per carità. Adesso non mi sono quelle radio degli anni 50 che baracchini adesso. Cioè, baracchini degli anni 50 rispetto ai baracchini del 2010. Ok, ok, va bene. Dopo proviamo ad attaccarle il coso, come si chiama? Anzi, va bene, mi lavo dopo, non c'è problema. Gatti lì, la cosa in mano, casino, comunque. Kappa, non devo attaccare l'antenna esterna. No, l'antenna esterna c'è già, perché quanto è il segnale basso, no? 9.30. 9 più 30, e che mi diavolo. E adesso quanto è? 9.50. Siamo sui 9.50. Hai visto? Hai attaccato un buon segnale, ma tutto visto, c'è l'attacco l'antenna, c'è tutto. E la modulazione non sattia. No, non lo satura, no, è bellissima. Ci picchio, hai visto? Avevamo un altro cartolino da pulita a camminare di Paravanca. Già va bene, va bene. Dice a vedere stazionarie, come siamo qua? Questo è Gai. E c'è pu. Questo è così. Quale microfono? Non ha microfono, come fa? Mi ha trovato il fondo. c'è un bel una bella cappuccolina dentro. No, queste sono portate da Zodiac. Io c'ho il base di questi, c'ho il Zodiac B5024 base, e poi avevo preso quattro portatili per fare lavori quando siamo così esternamente. Erano sempre tra l'armadio, li ho messi a tutti a caricare, e oggi li ho portati a Trabacos, e quindi mi sono rientrato poco fa e me ne ho portato uno a casa. Va bene. Eravamo Tommy, forse tu la conosci, alla diga del Tirso oggi. Che non c'è microfono, ma noi usiamo solo, vedi, pochettino della 60 lo stesso. Ah, cagliati. No, perché non mi ricordo, era troppo alto. No, e beh, se ti avvicini molto, molto, diciamo, la portata aumenta di moltissimo anche la volumazione, quello è vero. Niente, dovrebbe avere all'interno una capsula di micidiali, gruppo. Senz'altro sì, perché come te la avvicini della moglie, dice Maria, ma le sei usate nuove. E se lo parla matti, noi abbiamo pure i cuffie a vedere. No, ho ascoltato i cuffi. Ho capito, sì, allora va bene, va bene, va bene. sera, e anche quella è bella. No, come sono portatile, mon Dio. Portatino, che avevo lavoro, l'ho riportato qua a casa, adesso l'ho messo a caricare. Cercherò un microfono, uno di questi tanti microfoni che ho, e useremo anche quello. Ciao, avanti a tu. Ciao Mondino, aspetta una macchina da mia parte. Abbiamo lasciato in stand-by che è Domenico. Domenico, riprenditela. KK. Siamo sei piccolino, già va bene. Va bene, riprendi qua. Ho una domanda dal dottore. A sistemare, a fare cosa? Cosa andato a costa. Allora conviene quello. E magari si ha anche più prestazioni migliori dell'altro. Tutto grazie. Miau, miau, dopo. Dopo, dai. stanchezza sotto la doccia. E niente. Non proprio come facevamo la mattina, non ci va. Vabbè dai. Oh, a posto. Oggi ho fatto lo scaffale, dai. Oggi pomeriggio sono passato da Bricopan, ho preso quattro tavole. Abbiamo fatto lo scaffale, almeno così, è un po' più in ordine. Ci vuole, io sto aspettando ancora, veniamo che finisca di fare. Io ho acceso il baracchino, sto andando con Lafayette. Mi sono girato un po' dall'altra parte, già mi sentito lo stesso. Da 90 centimetri più corto non ce l'hai? No, al momento ce l'avevo quello da 45, ma l'ho distrutto. Perché? Ti frisce? Beh, quando c'hai, quando è così vicino, i cavetti della strumentazione è sempre meglio metterli corti. Da 90 sono già, quando scommetto che poi lo strumento ce l'hai sopra la radio, o a fianco alla radio. Ce l'ho a fianco alla radio. Ce l'ho a fianco alla radio. Ce l'ho a circa 10 centimetri staccato. Quindi anche quello, anche quello influisce un po' di rientro del ref, niente in particolare, vabbè. Tieni conto che l'affidabilità trova quello esterno, non pensare che quello interno sia al 100% affidabile, è all'80% affidabile. Scusa, arrivato a questo punto allora chi devo fare affidamento, allo strumento o a lui? Quello esterno, Sandro, lo strumento è quello esterno che comanda. Quello della radio è sempre, ti dà praticamente il segnale di accordata, quando lui ha finito di accordare, però l'affidabilità proprio vera e propria te lo dà quello esterno, non quello dell'apparato. Ho capito, no, perché logicamente il cavo di antenna arriva allo strumento, poi lo spezzone va dallo strumento all'apparato e quindi come fa accordare anche lo strumento? Tutto qui si accorda lui da solo e a me mi segna le stazionarie che ci sono in antenna. Ma tu la prova la puoi fare mettendolo diretto, stacchi lo strumento, metti l'antenna diretta e usi l'accordatore della radio e guarda se tira sempre uno e uno. Sì, no, quello già provato. Mettendo senza strumento, mettendo la uno e uno, infatti mi sposto dei canali, me ne accorgo che sale uno e 5, 2 e poi vado ad accordare. Quindi è giusto? È giusto lui, a lui accorda perfettamente, capito? Ma lo strumento lo uso, non so, un attimino sul modulatore, un attimino sui watt per vedere i picchi. Esatto, e allora non c'è nessun problema. Vabbè, dai, riprendete un attimino voi. Cappa dell'ormetro, avanti a tu. Certo che se è giusto che lo strumento è quello che si deve controllare e non fare molto affidamento alla radio, è meglio che si guardi più lo strumento che la radio. Ma certo, ma sempre così, non è più fare affidamento a uno strumento di una radio, anche se professionale, ma sempre meglio fare affidamento ad uno strumento esterno, però la prova la può fare, si può vedere. Ebbene, glielo grido. Non credo, glielo. Ma qua io c'ho lo strumentino, da suonare niente, uno. Ebbene. Pronti siamo. Poi già, vedi, siamo pronti. Anch'io sono così, Gianni, non è un peccato, purtroppo siamo un po' malattucci e quindi va bene, io sto usando il Lafayette con il canale più 3 e mi sono girato un po', ho visto i baracchini spenti e ho acceso questo, tanto per fare due chiacchiere già va bene, già mi sentite lo stesso. Qualche po' di polvere ci vuole ogni giorno. pulisco la sera prima, qualche cosa le faccio il zitto, non solo lo prendo, lo arrivo, però sempre qualcosa da pulire. Sempre c'è da fare, Gianni, sempre c'è da fare, non c'è niente da discutere. C'è sempre da fare, quando uno c'ha il radio, riferraffa, c'è sempre da fare. Questa roba l'ho lasciata, in un minuto di tempo per riscaldare il calmatore, 5 minuti ci ho messo a lasciare le mani. Già vabbè, se te le sai fare le cosette anche tu, no, io ci ho infatti mio un tanno più tre. L'altro, un altro tanno più tre che lo voglio inserire al Zodiac, al 50-24, perché c'ha l'attacco di quelli a coso, domani copro il connettore, non è di quelli a 4, di quelli a puntale, e voglio usare anche quello, domani le compro questo connettore, piano piano me lo faccio. Se ho 5 minuti così uso l'altro turner, vediamo. 5 a 5 del spinotto, mi sembra che dovrebbe avere 5 punte, confermi? Mi sembra di sì. 1, 2, 3, 4, 5, aspetta che ho il microfono normale qua, nel cassetto, riesci a vedere a quante punte è? 2. 2, 4, 5, sì. A 5 punte tutte in uno vicino all'altro, però capito? Non sfasate. Lo so, fa tipo un arco. Esatto, già. E se vuoi, a te moduli con come si chiama, ti do anche il coso internet, il coso della ricerca, ti do anche l'ordine dei fili, come ti devo incartare. Infatti, no, non c'è problema. Ho un M500 anche nuovo da poter inserire. Vediamo. E poi ci sentiamo adesso in Ugliese. Con calma di giorno, io ci sono stanco morto, non so manco come c'ho la testa. Se ce l'hai, ricordamelo che mi dai l'ordine dei fili e così magari quando siamo in radio, magari anche domani se arriva questo microfono, gli facciamo le prove e così mi faccio anche il microfono. Parla con Antonio, c'ho tutto qui, la vedi anche tutto, anche quel manuale, c'è tutta le radio. Modula con Antonio, sì, non c'è problema, avanti Anto. Ehi, no, è buono, sentirà i piedi nella giusta posizione. Perché è tipo questo giugno, tipo mobico così. Quello tuo non so se. No, quello tuo è a 6, questo è a 5. Ah, è vero, questo è a 6, 2, 4. 5 al centro, sì. E 5 più 1 quello, perché c'ha il down e up, capito? Invece questo no, questo non c'ha niente, è un base molto bello. K, già va bene. Ottimo per la truppa. Sì, a dire aiuto, già lo credo. No, poi questi baracchini sono eccezionali perché non prendono manco colpi, non c'hanno niente, proprio. No, quello base è molto bello, c'ha l'odometro, c'ha l'osmetro, vattimetro, c'ha un bello strumento, l'osmetro, vattimetro è Smitter, quello lì. Qui c'è l'orologio, non ha le bande laterali, comunque già non ne frega niente, li sto per usare. E però c'è il microfono suo normale che non mi piace, non esce. E allora metto un microfono di questi e c'ho io, non c'è problema. KK. Sono a 50 cm dal turner, molto rilassato, bene mi senti? Oh, benissimo. Penso che sono proprio appoggiato alla poltrona, di luscio. Vabbè. Ma baronga, devo fare la barba, non ne ho voglia, ma devo fare per forza che paga un pellichero. Ora facciamo la mattina. Se mi alzo presto, domani mattina a passare 7 e passano a prendermi, capito? Che ho dato la macchina al mio collega. Ho dato la macchina al mio collega fare prima, perché siamo rientrati dalla 131, ho toccato, non scendo la portoce a portarci a te, poi vorrei salire che allora arrivo a casa, e dici, fa una cosa, lasciami assassare a me, vai, dici, domani mattina fino a prendermi. E quindi sono anche a piedi. Cappa. Allora sarà lui a prenderti. Sarà lui, se no siamo rientrati già che erano quasi le 8. Se scendevo a portare lui a Polottoce, poi risalire con traffico, arrivi a casa di Rizzi. Allora, visto che eravamo già a Sassia, io ho detto, sono dietro la scala di ciocca e lasciami qua e vai di lì con la macchina, poi domani mattina alle 7 sali a prendermi, così facciamo. È positivo, accetto. E quindi anche domani saltiamo il caffè, dai. Sì, va bene, pazienza. C'è tempo e luogo, dai. E beh, penso proprio di sì, che non ci siano problemi. Questo Lugariello è proprio incasinato, sai? Sì, Lugariello ha fatto l'entrata nel bar azzurra. Ha fatto l'entrata, ma è assolutissimo. Ah, rientrato, non è giù a Coscio, non c'è. È rientrato, il baracchino è rientrato. Il baracchino mi ha fatto le mie. Forse perché non ha risposto nessuno, se ne non è entrato, No, ho capito. Da quanti amperi è il tuo alimentatore? Mio è 13,8, così dice. No, amperi, quelli sono i vostri. Quanti amperi? 12 amperi. Ah, 12 amperi, Ho capito, Va bene. Perché bisogna procurare quello grande per mettere le lineare. Eh sì, ci vuole uno più grandetto. E 20 ampere ci vuole. Buone 20 ampere. E ci conferma. Cazzo Mauro, ventisti, ho già andato, Mauro! E Mauro, sì, ci sei dormito, ha fatto tutta la tirata. Vai già. Ok, ci sono tutti, manca qui il toccai e lo Spoviak, per gli altri ci sono tutti, il toccai di Pellino della Turner dell'epoca d'assalto del 73, non riesco a trovare né il toccai né lo Zodiac, però tutti gli impresi, sono anche impresi, non sai quanto costava il più 3, 65.000 lire all'epoca. E infatti lo pagai 80.000 lire, lo pagai allora. È giustissimo il prezzo. Trovo che qui non me lo trovo, qui mi trovo HB23, e tutti i Constant, tutti i tipi di livello, tranne nel Tokai, nel Tokai molte volte lo montavo anche come opzionale, cioè manuale. HB23 ci sono anche le connessioni qui ad lungo. Lo vediamo, questo è il Constat, è tutto, tranne del Tokai e del Zodiac, mi sa, strano però, mi lascia perplesso che non esca anche con qualche altra bomba in quell'apparecchio, però adesso mi scrivo il circo elettronico, dove c'è, quando ero proprio in vito con l'apparecchio, c'è il circo elettronico, un attimino. Mi pare sia uscito nel 75. Nel 75 o nell'80, buona cosa del genere. Vai, Anto, vai. Allora, siamo qua, siamo solo noi. E lui, siamo solo noi. È saldo. E io, no, sono qua che era mattino controllandomi la posta. Non manca mai, se mi tocca lavorare. Quindi lavorare, sa. Vabbè, già lo so che tocca lavorare, è meglio lavorare, certo, ma alleluia. Va bene, ma tiriamo avanti. Caprino, buonasera. Buonasera Sandro, anche a te, io sono il mattino dei miei cicoletroni, è il mattino poi per lo studio. Sempre facendo, bisogna fare, se no, mette un casino. Capo. Sempre non c'è, non c'è più. VRM, lo sententi? No, non ho sentito Luigi. Va bene, Luigi, non è VRM. Non si sente più l'oggetto, strano, eh? Non si intende, non si intende. Non va quel giorno, non l'ho più sentito. Non so perché ha piazzato quel coso e poi non so se l'ha sistemato e cosa ha fatto, non so. Infatti non lo so neanche io, se l'hai bruciato tutto. No, bruciato no, no. Non lo saccio. Ma dove va? Devo fare delle prove, delle cose, buono. Non mi ricordo esattamente. Si era finito di mettere a posto quel lignaretto che c'aveva, quel lignale, non saprei che dire. Non saprei che dire, Claudio. Yeah. fatto oggi di lavoro, mannaggia. È pesce stanca, sì. Nel frattempo se avete parlato in due, cosa hai detto Gianni? Io sono il telefono, non lo so, come qui c'ho toccai in pace di Sarti con la stazione padre. E qui so fare il 5024 parla di 360.000 lire. Sì, bubu. Era un bel disciuto allora, eh. Ok, capito Gianni, tenore di vita era anche diverso da quello di adesso. Ecco, grazie. Quando vado in negozio prendo 50 euro a mia moglie. Molte volte diciamo non compriamo più nulla perché l'euro diciamo ha rovinato tutto. Non si può entrare in un negozio che hai capito, ti fate subito 50 euro. L'ho provato, guarda, è così una figata. Sto vedendo un vecchio favoloso WFO, ecco, da 27, una scatolona, quella con manopola con la devolutifica. Addirittura. Già va bene. Già va bene. Quindi cosa ti ha detto Negrini, che l'ha spedito via posta, quindi te lo porta all'SDA o la posta apposta? Sì, ho parlato con Andrea Pannato, siccome l'altro giorno che ha scritto questo qua, l'ha scritto con martedì sera, mercoledì ci avevo la pausa con lo scuola dove ho fatto farmi il caffè, c'era mio figlio, ha detto il campanello, pensavo che era l'altro figlio. No, è il corriere fa, questo oggi un pacco, io ho detto già, invece questo signor Andrea mi ha detto, l'ho scritto, ha detto signor già, ecco, mi ha tolta, quindi ho fatto il calcolo, una settimana ci viene quasi, ma ci ho quindi penso che sia qui, dai, male male andando. Non ho capito, aspetta che commuto la radio, uso l'altra. Ecco qua. E quelle sono cose che contano, una marca di soldi allora. Questo l'ho fatto anche, come si chiama, di allora, elettronica Bianchi, Piedimonte, San Germano è Ferrara, non so se Ferrara o qui, questo qui all'epoca vendeva se ce la faccio ne prendo dopo. Ehi, sì, tutto va bene, io Antonio sto uscendo un attimo a fare una commissione, ho già riprende dopo se ce la fa. Ma cosa stavo dicendo? Ma vedi, c'è anche quel catalogo lì già. Ho capito, Oca. E anche quei cataloghi lì vecchi. Non si arrivano, ma quando guardano la mia, quello si vede allora. quegli anni lì, negli anni 75, 77, 80. Ma io me l'ho entrato allora, ero ragazzino, non nel 74, mi sembra, e prendevo, ma ho tanta meraviglia, mi trovo, me l'ho entrato quei marmiti alla Valmiciana e a toccare le lastre del marmo quando finivo la scuola, però diciamo che ho tanta meraviglia, non ci arrivavo qua. Claudio mio, mio, ho trovato, questo te lo fotocopio a colori, eh. Allora, Zodiac D5024, stazione base, l'ho trovato, claro, come si chiama proprio il DPA suo. Lui è bello, perché voglio fare una modifica con la radio. Metto all'interno uno di quelli miei piccolini da 30 watt che ci sono in vendita, l'avevo già fatto ad un'altra radio, è uscito bellissimo, perché c'è il trasformatore dentro, capito? C'è il trasformatore a 220 e 12 ed è facilissimo farlo, perché prendi l'alimentazione sempre dall'interno, dai 12 volts, la porti sul linearettino e poi fai il ponte col, per l'antenna, funzionava benissimo, c'era un telettorino dietro piccolino, lo accendevi e dava 25 watt, anziché per dire 4 watt, e citava il linearettino e funzionava benissimo. L'avevo fatto all'Inuit 23 canali, a questo 40 canali lo voglio modificare. Ma che ne fa? Quanto bisogna avere? Quanto assorbe di tensione? No, pochissimo, quelli piccolini, un pacchettino di sigarette, insomma. Li avevo trovati una volta in fiera, l'avevo preso un paio, uno l'avevo dato a Franco, che aveva fatto una modifica anche lui, e uno l'avevo messo dentro l'Inuit e lo portava bene, no, assorbe pochissimo, 3-4 ampere. Ci sa, no? Ho trovato anche il prezzo del contract, caspita, e quante tipine ci volevano. Allora, contract 25B, completo di vedere canali, a solo 149.950, questo siamo guardando sempre il cartello o clave 72. Eccomi. Ma sei riuscito a fare qualche commissione? Che cosa? Tutto, abbiamo chiamato, non hai risposto, non ci dici. No, mi ero chiamato lì, ero al telefonino, quindi ho passato una parte al volume e via dicendo. Ah, ho capito. No, Antonio si è allontanato un attimino, che è andato a fare una commissione, sicuramente mi ha dato a portare il cane. Io ritorno subito. Avanti Gianni per Sandro. Ok Sandro, si è entrato, ti ho rilanciato poco fa, niente, poi ti ha chiamato Antonio, niente, allora si è rientrato, bene, ascolti quei pezzi. Diciamo che Capri, ti ascolto bassino, ti ascolto bassino, so perché non c'ho un filo di QRM, però ti ascolto bassino, mi sembra che mi arrivavi anche meglio. Non ho toccato niente, sempre così è la roba, sempre così già, come l'ho messa, ho toccato una sola giusto questo microfono che mi hanno detto che ha migliorato un po', non lo so, forse quel QRM non so se ho capito bene, ora ho niente, ho toccato nulla, la radio mi ha stata qui immacolata, riprendila. Vabbè, provarci anche la zona, Sandro, la ricezione dell'antenna, un dinamotto. No, qua è una fucilata, Gianni, Sandro. E quanto stai arrivando tu? Alla 9.25, tutte e due siete. Non c'è problema, va alla grande. Sì, già, però quando poi usi l'altro microfono devi gridare di meno, eh. Devi tenere una tonalità di voce così bassa come la mia, perché altrimenti vai a distorgere, anche Sandro appena ha piazzato quella radio con quel microfono si sta abituando piano piano a parlare con molta calma, che sono microfoni talmente sensibili che se le dai timbrica di voce molto alta vanno a strappare. Ho fatto tipo mobile, no? E mi ha fatto i miei piani, ho fatto tre ripiani, così adesso l'apparato è in piano, perché prima ce l'avevo in basso e mi toccava mettere qualcosa sotto l'apparato per rialzarlo. Invece adesso ce l'ho proprio, me l'ho fatto all'altezza giusta e così è tutto ben ordinato. Soltanto che adesso ho il cavo del microfono che è corto, cacchio. Devo procurarmi il cavo più lungo del microfono. Sì, no, almeno così, insomma, c'ho il ripiano, distribuisco meglio. È tutto più ordinato, poi quando ho tempo li do, che non l'ho neanche verniciato, gli dovevo dare una passata di pregnante, di qualcosa, colore, non l'ho fatto, cazzo, ho la fretta, e vabbè, va. Per il momento già va più che bene così. Io l'avevo fatto nell'altra casa, sempre qua a Carbonazzi, l'avevo cominciato prima, fatto asciugare, poi messe le radio come dovevano essere messe. Non c'è problema, devo guardare io se c'ho il cavo lungo, la prolunga diciamo, perché anch'io ho fatto le prolunghe perché hai visto come sono le, come c'ho le piani, no? Quelle in alto, il microfono in basso, siccome non ci arrivava il cavo, mi avevo fatto fare le prolunghe da Massimiliano e dovrei averla qualcuna, Iaesu, perché ce l'avevo, me l'avevo fatta Iaesu, Icom, Kenwood, eccetera, eccetera. Siccome Iaesu io non ne ho, non nappo. Ma cosa c'hai tu, la spirale o il travettino quello clippato? No, io un cavetto sarà... sarà 50 centimetri. Ho fatto un ripiano, adesso ci ho messo qualcosa per mettermelo giusto, e perché dietro c'è un altro connettore, adesso non so a cosa serve quell'altro connettore che c'è dietro il microfono. Altra uscita, per usarlo con l'altra radio. Quel microfono puoi usare con due radio. È come l'SM8 o l'SM10, quello della ICO. Capito? L'SM20 invece non è di connettore, c'è un cavo direttamente che esce da dentro, l'SM20. No, perché se ci aveva l'attacco di quelli come c'ha questo qua tuo. Ti ha dato l'altro cavetto, quello che è più lungo, capito? È molto più lungo, no? 50 cm, mica più di un metro forse. Ma adesso guardandolo bene un altro capo non lo posso mettere qua, di prolunga. Se come faccio? No. Dovrei trovare un qualcosa per una prolunga. Attaccarla col soffracavo e mettermi il connettore e fare la prolunga. E la prolunga, attaccarlo al maschio del microfono, quello che va alla radio, e fare la prolunga come un barilotto. Capito? Maschio e femmina, fare la prolunga. E devo guardare se ti posso accontentare, dai, avanti una giornata. Guardo domani a vedere se ce l'ho, Iaesu. Se ce l'ho della Iaesu te lo voglio dare. Ok, avanti Gianni, un secondo solo che vada bene. Ok, già si può fare comunque, il problema. Basta, diciamo, comprare dei connettori, tipo quello che l'audio deve inserire. E di quei connettori, che quello lui ce l'ha 5, però ci sono anche 8, Sandro. C'è il maschio e la femmina, io li ho visti molte volte, ma ci dici, basta fare una connessione del genere e lo allunghi dove vuoi. No, già ci saranno già pronti, certo che trovarlo qui magari è una cosa, bisognerà magari ordinarlo e bisognerà un attimino ordinarlo, tutto lì. E vabbè, piano piano, ho capito, piano piano, una cosa alla volta facciamo, dai, senza fretta, adesso per il momento va bene così. Tante cose, cioè ne ho roba, non professionale, questo è l'ultimo acquisto che ho fatto, ho comprato questo G728, poi ho comprato un G290, l'anno scorso mi sono comprato uno 030 Yaesu, come dice Vittore, poi c'ho un trasmettitore alle piraffe, c'ho un G312 in garage, e poi c'ho sta roba dei baracchini, ero tutto adattamento, no, l'ho comprato, c'è stato qui capitato, che mi piaceva, mi compro una cosa, e poi c'ho anche lì con Titan, portatilino, l'ho comprato lì G91, ho comprato quello anche quello l'anno scorso, giusto per collezione, per trasmettersi, e niente, sono cose che io penso che quel capo lì, dove ho comprato la Fuji 208 negrigi, l'abbia, perché già mi hanno detto un quarto magazzino fornito di tante cose, basta fargli una passa e sentare, quello non sai neanche a modificare nulla, sa. Ehi, vabbè, dai, va bene, tanto per quello che lo usiamo, diciamo, qualche volta così la sera, se non è la domenica, sabato e compagnia bella, poi insomma non è che perderci la testa più di tanto, o Capri, capito? Tutto lì. Sembra strano, guarda, la stessa cassa, la stessa autoparlante esterna. santi miei filtri, è quella del 920, precisa identica, FT 920. Quindi le dici rimandate direttamente quella del 920 ed è uguale, precisa identica. Capite? Non cambia assolutamente niente, solo mi costa 20. Allora l'avevo presa io 180 euro mi pare. Aspetta, mi sto guardando un attimino, sono entrato nel sito e voglio vedere un attimino. Mi sembra strano, mi sembra stranissimo che no, ma vai, che se ne sono andato. Yaris FT DX5000. Ma si chiama la colonnina? No, aspetta che non ho trovato proprio il sito della Yaesu, dove ci sono gli accessori. Controlla, comunque lì ci deve essere verso accessori, e guardi, quella della radio tua e quella dell'FT 920 sono uguali, cambia solo la scritta. Quindi sono sicurissimo che quella del 920 c'è in produzione, c'è perché io l'ho comprata l'anno scorso praticamente. L'avevo comprata l'anno scorso, poi la radio l'ho venduta e quindi ho dato tutta la linea, anche la colonnina, l'MD100, tutto. Avevo dato tutto per comprare altre radio, avevo sacrificato quella che non, diciamo che era quasi doppia, ogni volta che ho preso l'Incom e poi aveva le stesse cose, 50 mega, eccetera, eccetera, e quindi... Anche quello lì era un tribanda e questo qua è un quadribanda, perciò a fin fine. Vai Gianni, riprendi. Adesso ho trovato una cosa io. Del 94, allora. Dunque, catalogo di Italia del 94, già che ci sono quei microfoni già, come quello che c'è a Sandro e si chiama come si chiama quello che deve arrivare a me. Questo però si chiama AM308, però è preciso identico, lo sai, il prezzo di fine 249.000. E quello della Lunis però? Preciso a quello che dobbiamo fare, un preciso identico, con le stesse caratteristiche. Ma guardi bene, preciso anche di figura, Gian, te l'ho detto. Se tu li metti tutte e due vicino, sono precisi e identici, sono di uno costa un prezzo, l'altro costa di più, capito? Però tecnicamente e visualmente sono due gocce d'acqua, sono precisi e identici, come ti ho spiegato prima, no? La casa costruttrice che c'ha il marketing, fare la pubblicità, ha messo il suo marchio e basta. Però la costruzione ad un precisa identica, trovatela e sa. No, non riesco, cazzo, sto girando pagine, non riesco a trovare, cazzo, l'avevo già trovata, non riesco a trovare quella pagina proprio dove mi dà tutti gli accessori. Riesci a vedere questa. Ciao Claudio. Ciao Claudio, buonasera. Buona volta, chi è il primo? Ciao Claudio, buonasera. Antonio chi? Sergio Antonio. Mamma mia, non ti stai scendo male Antonio. Tutto trappato, tutto messo male, sì. E vabbè, dai, io non sono abituato alla M, Claudio, non lo so, tu, è tutta manetta qua. Già ti ascolto Antonio male, forse ti ascolta meglio Gianni Capri 2 da Muros. Ciao Fabri, buonasera, ben sentito anche a te avanti. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato anche da parte. Stavo spazzolando così in lungo e largo e ti ho sentito e sono stato salutato. Ho fatto male. Non hai fatto male, hai fatto bene. Ti saluta anche l'aria. Ciao Anto, tante belle cose, io sono sempre qua. A te non piace la M, a me non piace l'FM, e quindi continuo a stare qua. Quelle bande là a me non mi soddisfano. Qua c'è più gente, parli con tutti e tutti ti parlano lì, sembra che devi sempre fare la domanda per iscritto e quindi no, non mi interessa. Ok. Là, non ti preoccupare, la no, ancora me l'ha detto. Quel ragazzo, entra qui, Claudio e mi faccio sono entrato, adesso lo stavo cercando sul suo mano, capito? Lo conosci quel ragazzo? Sì, è Torre dei Libri. Sì, mi ha detto che ci fa la sua. Sì, siamo sempre qua sul canale 10, come sempre. Tanto facciamo del chiacchiere, reguliamo radio, insomma ci divertiamo, dai, del più o del meno, vediamo un po'. Vediamo se ti sente Ittiri, poi c'è anche Sassi, Alessandro, c'è Fabrizio, insomma c'è un po' di gente. Gianni, lo senti ad Antonio da Ittiri? Come lo sento, adesso non è per offendere Antonio, ma come che tu metti, come si chiama, oggi la dici che c'è la puntina, che grazie, così lo sento. E il passo mi arriva. Buonasera, non so se mi stai ascoltando, capo. Lo senti, Gianni? Dico, non lo sento, poi io ho quelle, di spalle c'ho la collina, no? Forse per quello, non lo sento nulla adesso. No, è quasi 9:20, altro, c'è il problema. Avevi benissimo. La radio un po' da regolare. Ma cosa stai usando, il 44? Non ti scelto il radio, ma quale, cosa c'aveva Marco? Mamma mia, gara, anche tu, No, io ce l'ho e mio va molto bene. Va molto bene, adesso sto andando con un 757 GX2 che mi hanno dato a sistemare, l'ho sistemato, lo sto tenendo in funzione per vedere come si comportano, va bene. Sei in basso di radio, il tuo processore è sito. Basta, Ma aumenta già la radio, aumenta. Ma è l'MC60 pesa? No, fa male. Col processore inserito? Sì, il processore inserito. Inserito così inserito. Inserito, cambia qualcosa. Sì, lascia inserito, va molto meglio. Solleva un pochino il mic in alto. Mettilo a 2-3. No, il filtro. Qual è il filtro? L'MB, quello che c'è in alto, inserito lascio. E il filtro mettilo in automatico. La barretta mettila dritta in automatico. E poi abbassalo, mettilo a 2 che è troppo forte adesso, mettilo a 2. Guarda così qua. Non so regolarlo, capito? Abbassa un pelino, Come se mi dici la regolazione, quando entro, ascolta la potenza, il carrier ce l'ho a 3, ce l'ho, va bene? Lasciamo così, non toccarlo Antonio, buonasera, ti sento, non toccare nulla, cuidami bene. Da muro smetto che arrivo, hai visto? Vabbè, se non mi date il tempo, adesso va benissimo, lascialo così. Processione inserito, posizione del Mickey Gain a due scarso, così va benissimo. Il selector dei filtri mettilo centrale, e in alto a sinistra dove accendi la radio, l'NB inserito, e non tocca se riuscio. Lascia il telegare. Sì, ma lì che fai male l'usarlo. Vabbè, là. Sono entrato a saltare, ora da un po' non ti sentivo dall'altra parte, non stai più entrando, tu. E attore, un po' più attore me l'ha detto, a volte ci sentiamo più su in SSB, capito? E durante il viaggio, anche in macchina lo sento, però ci vuole prendere la pazienza anche quel ragazzo, E mettilo in mezzo, attore, mettilo in mezzo, Anche con la Sassari mi ho messo in mezzo un paio, vanno 29, appunto. sono state mille polemiche l'altra volta per il fatto che era stato inserito nel compito, nelle schede, roba tecnica di cose che non erano inerenti allo statuto amatoriale. E quindi sicuramente spero che abbiamo capito che quindi l'esame sia proprio una cosa di elettronica, una cosa che tutti possono capire, che del resto a noi delle parabole, dei satelliti, a me poco mi interessa. No, di l'altro non c'ho tempo di star lì e poi sinceramente parlando qua c'ho più amici, siamo qua su 10, abbiamo attivato il nuovo posto canale, stanno entrando un po' tutti e quindi mi trovo bene, rimango qua. A volte entro a salutare dall'altra parte, ma non è che mi attiri più di tanto, capito? Non c'è più nessuno. Siamo rimasti io e Walter e basta, non c'è più nessuno. Un casino nero. Poi l'inclinazionale è desolato, no, tutto morto. Non so cosa stia succedendo, un virus deve essere. Stiamo andando in decadenza, cari. Tutto mi sei sceso qua. Un po' di movimento, dai, tutta volta, sono tre punti in monitor, un camanco, un cane morto, niente. Gianni, un secondo, ma come Link è morto? Guarda che Link nazionale, aspetta, te lo dico io, hanno cambiato la frequenza, lo sapevi? Ma non c'è attività, cara. Ti ricordi prima che non si poteva manco entrare, adesso è un piatto, poca attività, capito? Quello sì, ecco perché io continuo a ribadire il fatto che va bene, c'è l'arrivatore, va bene tutto, anche per la detenzione dell'uso, e ci sto, ma fare sempre le solite cose, stare lì con monotonia, è inutile che la gente si incazzi, lo sai, io sono socio della sezione, ogni tanto mi attaccano, me ne dicono, ma a me non mi interessa. Non mi interessa, io sono fatto a modo mio e non la radio, anche questo è fare radio e quindi io la radio la faccio a modo mio. Ok, ti ripasso Gianni, poi c'è anche Sandro, avanti Gianni. Posso modulare il cancello, però sempre con tanto di rispetto, con tanto di chiaramenti mi lasciano, hai capito, la penso in questo modo, perché mi stavano coinvolgendo in come si chiama, che poi mi sono pensato e poi mi sono fatto, mi stavano coinvolgendo in cose che io neanche volevo entrarci, se hai capito bene. Niente, sai, se non fai gli esami in questo periodo. E c'è Roberto, guardato che va al 29, sono il 29, venerdì sono gli esami. Ah, qui ci sono altri radioamatori, quindi si riposeranno, sono quattro gatti questi radioamatori a Sassari. Lo so, quattro gatti e quattro tigri. E già ci sono, siamo in tanti, è che come me, come tanti, anche Antonio, Spatti, a fare a destra e a sinistra, giustamente siamo abituati a stare un po' da una parte, un po' dall'altra, io sono molto appassionato alla 27, quindi non ho mai mollata, sono stato sempre attaccato per il semplice fatto che tutti gli animatori che erano prima della 27 hanno buttato via tutti i baracchini e tutte le cose, perché hanno fatto un salto di qualità, ma non mi interessa. Io non ho fatto nessun salto di qualità, l'ho fatto più che altro per la detenzione e l'uso delle radio, per avere un po' tutto e usare tutto, e non mi interessa se devo entrare a salutare gli amici in VHF, UHF, in HF, entro, perché le antenne ce le ho, però se devo fare una chiacchierata, ammazzare un po' il tempo, la faccio qua, che ci sono persone che possono chiacchierare a livelli come me, insomma, così come si mangia parliamo, ecco, non è che dobbiamo stare lì a fare molte polemiche, molte cose, Fabri, capito? Questo è quello. passi, poi guarda che tra CB e radioamatore non c'è nessuna differenza, capito? Sono uguali. Io tu sai spazio, i decameti che qua sono le parti e ci sono maleducati come ci sono qua in 27, né più anche che peggio. Ah, su quello non ci piove Fabio, su quello non ci piove, perché lo sappiamo, tu sei un grande SWL, spatti e senti, ascolti a tutte le parti, quindi sai benissimo che sono d'accordo con te, perciò se si parla di maleducazione ci sono anche delle bande amatoriali e similari, se si parla di maleducazione si parla anche qua, quindi non cambia assolutamente niente. Il discorso mio è che, ripeto, ribadisco, io l'avevo fatto a suo tempo perché mi piacevano le radio le radio HF Baracchini, ne usavo pochi e alla fine c'avevo sempre la radio sotto casa, quindi mi sono preso la patente in modo che non me rompevano più le palle e questo è stato fatto. E alla fine ho sempre continuato a fare sia radioamatore che CB, ma non me ne fotti nulla di quello che pensano gli altri. E vai Antu. Sto chiudendo, dai, mi alzo presto domani, sono entrato a salutarti, mi fa piacere di sentire, poi fate sentire ogni tanto Borromeo lo so dove siamo, ciao, saluto Fabrizio e l'altro collega, l'altro amico che non mi ricordo, di Muros, non mi ricordo il nome, ci sentiamo, dai, like. Già se ti siete qua ogni tanto mi faccio un rito, ciao, buonanotte. Avanti, piacere averti ascoltato. Siamo qua sui canali 10. Adesso la regolazione di quella radio ciliare, quando voi fate due chiacchiere così, oggi non è entrato Ottore, deve essere impegnato, se no tutta la sera entra Ottore. E anch'io non mi trattengo molto, domani ne voltare presto. Ciao Avanti, un piacere averti ascoltato. Salutami i colleghi quando sei dall'altra parte. Avanti Gianni per i saluti ad Antonio. Ok, ciao Antonio. Buon tutto e a presto di sentirci, come se ce l'ho Claudio, io ho condiviso pienamente, io l'esame non lo devo dare il 29, però se l'avrei dato che mi ha avuto la patente, già li sono e già li rimango, avanti Sandro sempre. Ok, sto riprendendo io. Ciao Antonio, ben sentito per la premiera. E sentiamo tutte alle prossime. Ok, eccolo qua, l'ho trovato qua. Allora, già ne ha poco di cosa. SP2000 si chiama. Esatto, SP2000, mentre quello del 920 si chiama SP920. L'SP920 che è lo speaker praticamente, no? Gli hanno messo la sigla iniziale SP. Canto d'opera. Costa 210. Quindi di poco mi sono sbagliato, io la pagai quella ai 920, 180 euro e me l'aveva presa Marco Scorpion quando è andato alla fiera di Milano perché io non c'ero salito, ero di turno a lavoro, non ero riuscito a fare un cambio turno e quindi mi aveva preso lui la colonnina del 920, 180 euro. Che infatti me l'ha telefonato, c'è la colonnina del 920, te la compro, te la compramela. E quando poi me l'ha consegnata, mi ricordo sempre, mi aveva telefonato carissimo, viene a ritirarti la colonia, no, Marco, passa tu perché io sono incasinato, sono a casa. Ma tu me quanto ti devo dare? Rileva, non un pazzo, rileva. Dimmi quanto ti devo dare, no, scusa. Carissimo, mi devi dare 180 euro, me ne sono scese le braccia, grazie. L'ha detto, ma perché non mai chiamato quando lì che non è volevo che la mazza che ti devi e guarda, ci abbiamo fatto due risate, 180 euro, una cosa pazzesca, ma è una bellissima colonnina Sandro, non è una colonnina così come, tu immaginate che quella del 440, quella colonnina non serve a niente, che non c'ha niente, è praticamente una scatola di linea col marchio Kevud e c'è un altoparlante da 8 ohm dentro, costa 110 euro, quindi costa 110 euro quello del 440, immaginate quella che c'ha i filtri e c'ha tutto, 200 euro insomma è una cassa diversa sicuramente. Avanti Fabrizio. Continua pure, sto facendo le cosette al computer. Ah, quindi sono il 29 gli esami. Ehi Fabrizio, ma Roberto da Sassari poi mi pare che ci sia Salvatore Maestrale di nuovo, e qualche, un po' di gente dai paesi, cioè, insomma, non mi ricordo adesso chi sono. Comunque qua la Sassa arriva Roberto Quadrato. Speriamo bene, perché è la seconda volta che va, glielo auguro con tutto il cuore, e speriamo soprattutto che, siccome come sezione e come comitato regionale era stato fatto un, non un esposto, ma praticamente una lamentela alla commissione, dove loro avevano inserito questi quiz che si parlava di telefonia, di cose varie, e sai, chi non è preparato in quel campo ci cade. E quindi speriamo che non mettano dei quiz inerenti di nuovo a queste cose che non servono a niente, che mettano roba di elettronica e che si parli di elettronica come deve essere. Ma la voce l'avevo letto su internet, una storia del genere, capito? Quindi ce ne sono diversi da Sassari e di intorno, almeno ci saranno più radioamatori, tutta gente, poi magari tu, la maggior parte dei radioamatori nuovi che hanno preso, cazzo, 3 o 4 non si sentono più, sono stati 2 mesi, bla bla bla bla bla, e poi sono spariti. Perché capita così, Fabri, e come quando uno c'ha la moto, no? L'entusiasmo, anche io, l'entusiasmo di uscire in moto, di fare qui e là, poi alla fine ti rompe le scatole e la usi una volta ogni tanto. Non so manco se parte la mia, dove è sempre in garage, non ne ho più usato. È così, è la stessa cosa fanno le nuvole, le mature, no? E ne entri, bim bum bam, e poi alla fine si accorgono che è una cosa talmente monotona che no. Perlomeno non fa per me, io ho la patente dal 93 e ti posso dire che dal 93 oggi non avrò fatto neanche 100 QSO, perché ho il log, il primo log che ho comprato, che ancora non è manco finito. Perciò non so quante pagine siano, non ho neanche finito, perciò non me la fotti nulla, Fabrino. È una cosa che mi piace avere per, ripeto, la detenzione e l'uso delle radio amatoriali. E basta, ma poi per il fatto di stare lì a parlare non me la frutti nulla. Mi piace più stare qua. Criticato o non criticato, ognuno fa radio come vuole. E quindi io la faccio qua, non mi interessa. Magari ti criticano i tuoi colleghi perché non c'è la concessione per parlare in 27. Guarda, quello sarà proprio l'ultima cosa che sto pensando. Dal 73 continuo a dare sempre queste, non mi ricordo quanto era in lire, ma tu immagina che pago 12 euro per il baracchino e 5 euro per la licenza amatoriale. È una vergogna, non so il perché, ma è una vergogna, cioè 12 euro per avere che cosa? Niente, zero, dal canale 1 al canale 40, e 5 euro invece per avere tutto, non lo so. Che ne dici, Gianni? Ma io ero sempre pagantino, non ho pagato mai, però è come si chiama, sarebbe l'incontrario, hai capito? No, ma come stai dicendo tu, io faccio molto ascolto, c'è anche quello di Zero Più Guerre, che mi ha lasciato l'anno scorso, un anno, il nuovo attestato. Faccio molto ascolto, però diciamo, come stai dicendo tu, molte volte la roba è anche monotona, qui si parla a rubinetto aperto, dico questo. Ma infatti, cioè, è un controsenso che un CB con lo spazio che ha e l'emissione che può avere debba pagare queste 12 euro al Ministero delle Telecomunicazioni, potendo usare un baracchino limitato, 5 watt, dargli un po' più di spazio, no? Con 40 canali, vabbè, adesso è uscito qualche baracchino omologato con un po' più di spazio, qualche canale in più, le bande laterali, eccetera, ma sempre quello rimane, le 12 euro. Mentre un animatore paga 5 euro alle frequenze da 30 kHz a 50 MHz, tutte le bande VU, tutti insomma gli spazi necessari, e paga 5 euro. Dovrebbe essere al contrario, secondo me. 12 euro per la patente di ricerca amatoriale e 5 euro quella del baracchino. È una cosa, secondo me, fattibile, invece hanno fatto al contrario. Sempre nelle stesse casse entra, perché il conto corrente è uguale, il numero del conto corrente è uguale, e l'intestazione cambia solo licenza amatoriale e licenza CB, basta, però nella cosa li metto sempre così, li faccio tutte e due ogni anno e cambio solo proprio la causale, per il resto è tutto uguale. Sandro, riprendi. Quando ogni tanto mi cade dalla sedia, avanti con la colpa di Bicu. No, scusatemi, ma stai cominciando a prendere quota, no? Nel senso che mi sto adagiando in modo che dall'adagiamento lungo braccio e così posso fare la chiacchierata. Ecco, adesso ti ho capito. Vabbè, non pensavo ogni tanto come Mauro di Gaggia Gandria Buruduno. Ok, capito Fabri, secondo me è una cosa che dovrebbe essere al contrario, o no? Sicuramente sì, forse perché CB ce ne sono di più, capito? Forse perché c'è più richiesta delle concessioni, quindi è per fare più cassa. A prescindere quello, infatti, anche quello, è chiaro che con tutte le concessioni CB che ci sono, dei camionisti, di gente che lo usa nel camper, di gente che lo usa in barca, di noi da casa, eccetera, si potrà fare un business più alto. E invece hanno fatto una grandissima fesseria. Comunque, sempre cassa fanno, Fabrizio, sempre cassa fanno. Io le pago sempre tutte e due, non me frega niente, non sono le 12 euro all'anno. Volendo posso anche non pagarne perché ho quella dell'arrivatore, quindi non me ne frega assolutamente niente, ma ho anche i baracchini di cui omologati, diciamo tutti, tranne qualcuno, e a volte uso anche il baracchino, perciò non voglio avere rotture di scatto e l'ho sempre pagato e continuo a pagarlo. Ok, avanti Gianni. Bellissimo, ed è l'ultima cosa, è proprio per avere Ti troverai, insomma, dei viaggi in azione. Però qualcuna di nuova ci vuole sempre e quindi ci dobbiamo aggiornare. Molto bella anche quella di Ciassandro. Sono ultime radio. Vanno molto bene. Va bene. Avanti Fabri. Tutto bene, sì Fabri. Dice l'aria che sia un po' assente, come mai? No, già sto bene, là. Comunque stavo cercando di metterti la portata, non stavi parlando qua. Forse è qualche tuo collega radioamatore. Va bene, nemici ne ho sempre, o Fabri. Nemici già ne ho sempre, ma non mi interessa. Non è quello il problema. Lasciamo sempre vivere, lasciamo sempre vivere. No, mi stavo dicendo che sia assente. Come mai non ci stai passando al Mac? Ogni tanto, perché sto facendo le cosettine di questo periodo e quindi ci sto facendo poco e niente, capito? A periodi, tutto lì. Già sono vivo, io. Ah, già ti sta ascoltando. No, perché ti sta cercando del cambio, ha detto di passare di vuoto. No, sta cercando a te, ha detto che ti sta cercando che ti vuole parlare a quattrucchi. Basta che non si avvicini Fabri, basta che mi sia lontano a me. A chi si dovrà avvicinare che la voce busca forte. No, comunque non ho più visto, deve essere cazzo a paura di andare lì. E adesso sta anche lontano dall'aria, Buongiorno signorina, buongiorno. Grazie per la cultura da Mara. È un dito facile. Cos'è? Che c'è un dito facile, quando stai modulando tu c'è questo dito che si vede che si appoggia sul mic. Che gli ho visto segnare io, non ti preoccupare. Lascialo fare. Poi quando parla lui gliela metto io la portante, però quando gliela metto io deve stare tranquillo che non lo sente nessuno. A me mi sentono, ma lui non lo sente nessuno. Oh, io per carità, cazzo, ma perché? Oh. Mi dà fastidio a te? No, passi tranquillamente. E a te Fabri? A te ti passa leggermente, ma deve essere qua vicino a me. Guarda, già è lui, non ti preoccupare. Che quando lo sento io gliela metto io la portante con l'amplificatore inserito, così le faccio vedere che non parla con nessuno, adesso mi ha rotto veramente le palle. Avanti Gianni. Uno se non vuole modulare, la piana se lo stanno per scatogliare a nuova in fattore. Mai mi sono permesso, mica anche all'epoca, diciamo qualche cosa, non avevo ragazzi, qualche cosa succedeva, però mi sono portato, non sono mai permesso, mai azzardato, manco a pensare a andare a disturbare una ruota che stava modulando, però posso dire che una volta di questi di Cloane, che ero in baracchino, ci siamo andati grandi amici con me, ci siamo visitati con questi di Bonanno, andiamo alla presa, c'erano quelli che sono partiti le schiaffi, io mi sono tenuto fuori là perché ero sia amico di uno, amico dell'altro, sono le cose vostre, ho detto quelle arrangiate voi, quindi siamo venuti, ho detto raccolti, ho detto guardate dalla porta, non ci sono più lì. Proprio per via che uno metteva la portante all'altro. Sì, sono caroniate, se ho capito. A parte il fatto io sono come 20 watt e non spreco neanche energia per far sì che non mi dia fastidio neanche la Fabrizio, non me la fotti nulla. Non mi interessa proprio niente, capito? Ok, avanti Fabrizio. Sì, vabbè, vuol dire che dove fare non c'è nessuno. Sì, vabbè, tutti dimmi, già l'ho visto il segnale, intanto lo sto seguendo già da un po' di tempo, non è lì vicino a te, è in mezzo, non ti preoccupare, già quando parla lui, poi parla poco, ma quando parla poi è già meglio, io ho detto, ma poi questi vediamo si deve continuare a rompere l'arma, gatto, la gelosia ce ne va niente. Magari poi ce non ti fa più parlare a te. Dico, non voglio essere polemico Fabri, da un po' di tempo me ne sbarattamento le scatole, che non mi interessa, ma già mi so comportare diversamente, non voglio dare fastidio a nessuno, capito? È solo questione di educazione, capito? Noi siamo qua, non stiamo rompendo le scatole a nessuno, quindi il canale è aperto a tutti, non c'è nessun vincolo, nessun problema, chi vuole entrare entra, perciò non vedo la ragione per cui uno alle 11 di notte invece di andare a coricarsi e di farsi due chiacchiere con le persone. Telefono, aspetta un secondo. Benissimo, sì, vabbè, lascia perdere, dai, qua, fregatene. Fregatene qua, non te la prendere, tanto insomma, sono babbinate. Va bene, signori cari, io mi ho acceso il televisore, a Rete 4 c'è un bel film, però non ho idea. Non ho idea. Adesso stacchiamo un po' la centrale qua. Cominciamo a staccare file e filetti e compagnia bella. Signori, può continuo di questo e ce la sentiamo tutta. Cos'è? È la ventola dell'alimentatore. E ce la sentiamo tutti domani. Signori belli, buona giornata, buonanotte a tutti quanti. Sandro, ciao, buonanotte, alla prossima. Mi penso allora un po' io. Oh. Ok. Ciao, buonanotte, alla prossima, si riascolta avanti Gianni Capri. Ciao Sandro, allora, spero di rivederci domani, se arriva quella pare cinese, così troviamo a vedere come ha detto Claudio. Hola. sono 5, ottimo per la truppa. Niente, ho perso il filo di discorso. Vabbè. Niente da fare. Non mi metto più quello che stavo dicendo, vabbè. Quello che ho, quello che non, perché non ho mai scosso niente a nessuno, non me ne frega niente, quindi amplificato. 500.000 lire, oggi ha un valore di 2.000 e qualcosa, 1.800 euro, 1.500 euro, qui sempre della stessa linea della Chemod, perciò non di certo spreco valvole e corrente per andare a disturbare la gente, non me ne frega niente. Non devo competere con nessuno io già, devo solo chiacchierare, farmi le mie chiacchiere, ammazzare il tempo quando è possibile, basta, non esiste da nessuna parte andare a rompere scatole, soprattutto avere rispetto verso gli altri, cosa che con me ne hanno avuto poco rispetto comunque. Questa è già una cosa passata e quindi non mi interessa più. Però dico basta che uno abbia rispetto degli altri, educazione, il carattere uno ce l'ha come deve essere, capito? Quindi c'è chi ce l'ha in una maniera, c'è chi ce l'ha nell'altro, ma non ho mai peccato di presunzione, non sono mai stato né aggressivo né niente. Certo che io faccio il radio a modo mio, a qualcuno non piace, quindi giustamente ci sono tanti canali, ognuno fa quello dove le piace, non ha detto che deve parlare con me, con te, con quello e con quell'altro, è giusto anche quello. Io parlo con tutti, mi dico che mi rispetta, parlo con tutti, non voglio sentire chiaramente come sono successi l'anno scorso, di cui io vado, questa persona non l'ho mai vista, non la conosco di persona, non ho avuto modo, e ma lui si sente che ti conosce a me, ma dopo se io non l'ho mai visto, mi sono incazzato, mi ero chiotto, non conosco solo per fare il buono, abbiamo avuto modo di modulare educatamente e con tanto di rispetto un l'uno per l'altro, però insistevano nella raccolta, altro secondo me qualche duro qui vuole mettere fuoco, e poi ho detto, allora è che mi alleno di brutto, allora mi alleno di brutto, e anche io ho dato un taglio a certe cose, si erano incalcolati qualche duro che mi ha messo l'antenna da solo, che non ci credevano, tutto il potere in casa posso fare quello che voglio, certo, cioè, vuol dire che non ne ho avuto bisogno di mano nessuno, io non le ho tolte da solo via Pasqua, infatti anche Luca mette un po' di chiamare, ha dato una mano più là, ma non ne ho bisogno, io lavoro molto bene da solo e non mi interessa. Le ho tolte via Pasqua, le tutte assemblate, ripulite, quando poi ho sistemato tutta la casa qua, perché c'erano i muratori, quindi ho fatto sacco lavori eccetera, ma ho finito loro, abbiamo pulito tutto, ho iniziato a portare tutto, immaginate che non ho chiesto niente a nessuno anche per trabloccare, ho dato tutto in mano all'agenzia, ma ho fatto tutto loro, quindi niente, non mi ha piazzato da solo, mi pare non avevo nessuna intenzione, avevo un'antenna interna, ascoltavo le chiacchiere degli altri, mi andava bene così, poi una volta che ho sistemato tutte le radio, come dicevo io, che Falegname mi ha fatto la base, adesso mi sta finendo l'altro pezzo, Giulio Lollaro, che ho visto che era tutto a posto, ho iniziato a piazzare bene tutte le radio, ho detto ma le radio fare piazzarmi le antenne, e pure non ho chiesto niente a nessuno. In quel caso invece che mi stavi dicendo prima, Gianni ha detto bene una persona, che tra l'altro ci siamo sentiti poco fa al telefono, che l'ho sentito parlare, ha detto una frase molto molto giusta, di parole se ne sono sprecate anche troppo, è ora di fare fatti e lasciare perdere parole che vanno al vento, quindi ti ho detto tutto, il passato è passato, adesso guardiamo al presente, non me ne frega più niente di nessuno. Vogliamo che la 27 gran fa l'avanti e ci troviamo sempre su carri 10, hai capito? Sono cose che sempre devono finire queste beghe, tutte queste cose, anche io in qualche volta mi sono scaldato, una volta mi sono scaldato con Antonello, mi sono pentito subito, hai capito? Beh, molte volte la persona si trova anche in un momento, hai capito, che c'ha la corda alla carica massima, se non può il mole, Gianni, si può rompere anche la vita, capito? Quindi è meglio lasciar perdere, giustamente, ognuno c'è il suo carattere. chi si vuole, con chi non si vuole parlare non si parla, però non sopporto che uno vada a disturbare, che uno vada a rompere scatole uno all'altro. Io sono qua sul canale 10, ho il massimo rispetto di chi entra nel canale 10, rispetto a chi parla negli altri canali, perché non mi interessa. Perciò non capisco perché uno debba entrare a disturbare quando nessuno sta disturbando. Se vuoi entrare, canale aperto, tranquillamente, possono parlare tutti. Il canale non è né mio, né tuo, di tutti quanti, quindi non ho mai messo nessun vincolo e non voglio che ci pensi nessuno minimamente a mettere vincoli, di parlare con quello, di parlare con quell'altro. A me non mi interessa. Può entrare chiunque, se io con chi entra non voglio parlare, sto zitto, rimango in quell'inizio. Però giustamente non si deve privare nessuno di fare due chiacchiere con chi vuole farle. Non è cosa che io penso minimamente di fare, assolutamente. Quando qualcuno vuole entrare, che a me non mi pare di parlarci, sto zitto e ascolto. Quando ho la possibilità di parlare, parlo già. Tutto qua. Capito, mi hai? Poi, diciamo, io non sono niente con nessuno, capito, però non voglio essere coinvolto, capito, nei chiaramenti, nelle cose, ce lo accendo per passare un po', come ho sempre fatto, capito. Poi se la roba, diciamo, non è piacevole, molte volte tiro la mano pulita, ne ho, questo non sento più a nessuno, e l'altra volta ho lasciato anche un mese fermo, perché proprio succedevano cose, stava quando c'è qualcuno, questo tipo che disturbava l'altro, e quindi c'erano muniti di portatile, andare a cercare il tipo in giro, ma quando mai uno si prende un portatile e va a destrossare a cercare uno che mette la portatile, io. Ma sono cose che non vanno bene neanche a dirle, dai. Ripeto, ribadisco che la radio è bella quando è un passatempo, quando inizia a essere poi una cosa di lotta, un ceramento, non è più bella, quindi a me non mi interessa. Va bene così, Gianni, va bene così. Non capisco perché ancora esistano questa gente che va a disturbare quando non è proprio il caso, comunque. Va bene, io ho cambiato totalmente il modo di pensarla, ho fatto una brutta esperienza tempo fa e quindi non voglio più ricavare né entrare nessuno. L'importante, qui lo dico in radio in modo che chi è in ascolto capisca quello che voglio dire, che non mi cercano come una maletta nel mezzo dei geramenti, perché il primo che mi mette in mezzo dei geramenti questa volta la paga. La paga molto, molto cara, molto, molto cara. Quindi, questo è quello che io penso. Io non sto cercando nessuno, non voglio essere cercato, né alla radio e neanche fuori dalla radio, perché altrimenti le cose si mettono molto, molto male. Perché se prima lasciavo perdere, ho lasciato perdere, questa volta non lascio perdere più. Ok, ancora a te, Gianni. Thank you. ti ripeto, sono qua al mio posto, quindi non sto cercando nessuno. Chi vuole parlare con me parla, chi non vuole parlare non c'è problema. L'importante è rispettarsi, l'importante è avere rispetto uno con l'altro, anche se non si parla alla radio, vuol dire che il dialogo non ce n'è e che non si può parlare diversamente, perché le idee sono diverse, perciò è giusto anche così. Apprezzo anzi la sincerità, apprezzo la sincerità, ma ci sono altre cose che mi hanno dato un po' fastidio e che continuo ancora a pensarla come dico io, insomma, fino a quando non capirò esattamente qual è il nesso del discorso e del perché sono state dette parole un po' pesanti nei miei confronti al di fuori dalla radio, da persone che tra l'altro mi conoscono abbastanza bene, e invitando soprattutto altre a non avere dialogo con me. Questa è una cosa molto, molto pesante e vergognosa nei confronti di questa persona che l'ha fatto, e comunque va bene così, non c'è nessun problema. Capirò anche il perché prima o poi, non c'è problema, l'importante è che si finisca qua il dialogo e non se ne aggiungano altre di cose, perché se vengo a scoprire da altre persone che si aggiungono altre parole nei miei confronti, allora le cose cambiano veramente. Allora iniziamo, qualcuno farò chiamare negli uffici competenti e capire il perché sta diffamando il mio nome. Va bene Gianni, chiudiamo qua il discorso perché altrimenti diventa troppo pesante. Sono le 11:15 e io ti saluto perché è tardi. Porto classe, è sempre un piacere modulare, hai capito, insomma, domani sera ci arriva quella Gigino, facciamo la pelle troppo, vedere come va, e così, se Pedro Anzi mi farò una cosa, mi metterò qualche apparecchio in parte, lo voglio sentire le di persona, modulando un altro, va bene, speriamo che arrivi, sto anche a aspettare che anche se arriva la prima settimana, lui è dopo la spedito, io sono qui. No, io te l'ho detto, l'ho preso, e in 3 giorni era qua, la M508, la V508, adesso sto usando la V908, che è quello sempre da tavolo, che conosci, quello grande, ma questo non è il mio, di Sandro, io il mio ce l'ho, non ho molto bene con il microfono, te l'ho fatto sentire anche ieri, quindi appena arriva poi facciamo un paio di regolazioni con quella radio che hai, e sono sicuro che sei perfetto. Aspetta che abbasso, ecco qua, abbasso un po' la potenza, l'avevo sollevata per che c'era sta portantina. Va bene già, un abbraccio, grazie come sempre del QSO, un piacere scambiare due chiacchiere quando vuoi, sai benissimo che mi trovi qua, quindi per qualsiasi cosa mi puoi cercare, per prove, consulenze e altre cosettine. Io in settimana andrò a Chiaramonte da Carlo perché mi ha dato dei pezzi di questo IAISO che ho sistemato a Sandro e mi ha mandato una scheda che non andava bene, che era del 747, non del 757, e quindi gliela riporto indietro. Ne approfitto a portare anche una delle mie radio che mi deve fare una taratura. Quindi se voi, se mi permetti, te lo saluto da parte tua, non ci sono problemi. Ciao Gianni, grazie per tutto, per la compagnia eccetera, e ci aggiorniamo domani, fammi sapere se ti arriva il microfono. Ciao a tutti quelli che sono all'ascolto, buonanotte a tutti. Salutare il nostro cavolo, io abito a due passi da Fiancra, non sto prendo poco, il forse il facciamo dei colli di pesci, però ogni tanto ci incontriamo con Giancarlo, però mi fisserò a vedere anche l'apparato. Allora, buonanotte, grazie per quello.